Dynamo Point aprirà in via Petroni 22A a inizio novembre, con orari d'apertura dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19, il sabato mattina e il sabato pomeriggio. Ci saranno circa 50 posti bici. Effettueremo anche servizio di officina, quindi riparazione, vendita di bici e di accessori e noleggio di bici e di cargo bike. Le tariffe attualmente sono 25 euro al mese per le tariffe convenzionate, 70 trimestrale, 135 semestrale, 239 l'annuale. L'esperienza di velostazione Dynamo è nata nel 2015 presso i locali di via Indipendenza 71 barra Z, che sono stati concessi dal Comune di Bologna all'Associazione Salva i Ciclisti Bologna con un bando Incredible. Attualmente gli spazi sono in ristrutturazione con dei fondi PON Metro e la riapertura è prevista per la primavera 2022. Nel frattempo abbiamo deciso di aprire un nuovo spazio in via Petroni, in zona universitaria, perché crediamo che il servizio di parcheggio debba essere un servizio diffuso all'interno della città, per permettere a tutte le persone che si muovono in bicicletta di parcheggiare in modo sicuro quando effettuano i loro spostamenti, quando vanno a lavorare o quando devono fare delle commissioni. Partire dalla zona universitaria per noi è fondamentale perché è uno dei poli attrattori principali per le persone che vengono da fuori Bologna, studenti ma anche dipendenti, professori universitari. Di conseguenza avere due punti, uno in stazione e uno in zona universitaria accessibili con lo stesso abbonamento è un servizio aggiuntivo che invoglia e incentiva le persone a utilizzare la bicicletta nei loro spostamenti quotidiani. Certo, e poi è strategico questo punto in via Petroni anche proprio per cercare di pian pianino, se possibile, risolvere la criticità comunque della zona, no? Certo, sicuramente oltre ai problemi, diciamo, della vita notturna, ma che noi non potremo risolvere facendo un'attività diurna legata al mondo di biciclette, però sicuramente daremo un segnale soprattutto rispetto al problema dei furti di bicicletta, che è sempre stato una delle cose principali che hanno afflitto la zona, e creare un servizio che permetta alle persone di parcheggiare in sicurezza sicuramente è un incentivo a vivere la zona in un modo più sereno, più sicuro e più sicuri di muoversi in bicicletta soprattutto. Sì, assolutamente. Poi a questo punto direi anche di ricordare un po' il record dell'esperienza di in via Indipendenza, perché abbiamo avuto zero furti su 70.000 parcheggi, perché il servizio è presidiato dal personale e la stessa cosa sarà in via Petroni. Abbiamo realizzato 25.000 riparazioni, 15.000 noleggi e quasi 5.000 consegne da quando è partito il servizio di consegna a domicilio. Speriamo di replicare questi numeri anche in via Petroni. Ricordiamo le attività che ci saranno proprio qui, sia in via Indipendenza ma anche qua in via Petroni. Sì, i servizi sono quello di parcheggio custodito, officina di riparazione, vendita di accessori e biciclette e servizio di noleggio, soprattutto di cargo bike, con un progetto che abbiamo in corso per incentivare le persone a utilizzare la cargo invece che la macchina per gli spostamenti quotidiani. Ricordiamo allora infine chi sta mettendo a disposizione la sede. Sì, la sede è data dalla Fondazione Rusconi con un contratto commerciale di affitto e abbiamo avviato questa interlocuzione qualche mese fa quando si è reso disponibile lo spazio, che già prima era un'officina di biciclette.